Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. D'accordo, siamo sotto elezioni americane. C'è la crisi, le borse crollano. Ma sono veramente esterrefatto nel vedere che nessuno pare ricordarsi del fatto che il 4 novembre è il 90° anniversario della Prima Guerra Mondiale. Un conflitto in cui milioni di uomini sono morti rantolando nelle trincee e spirando abbattuti sui fili spinati. Una guerra i cui esiti hanno dato vita a buona parte delle disgrazie della prima metà del secolo scorso. Siamo ormai solo concentrati sul presidente? Il 4 novembre ho sentito parlare solo di dirette dagli Stati Uniti. Qualcuno raccomanderà di porgere un pensiero di rispetto e gratitudine a quei morti? Un cordiale saluto, Luca. Spettabile redazione, sono un ricercatore che presta la propria opera presso l'Ateneo di Parma. Lunedì mattina ho sentito parlare alla vostra radio di un patto scellerato fra docenti e studenti, a causa del quale si è giunti a passare gli esami con sempre decrescente preparazione. Parole sante. Personalmente ho iniziato ad avvertire che si stava imboccando una strada sbagliata a metà degli anni 90. Ho cercato di comunicare ai miei colleghi le mie perplessità, ma non fui ascoltato e tacciato di essere pessimista e cattivo nei confronti degli studenti. Poi sono iniziate le proliferazioni delle sedi, indipendenti o staccate che fossero. Tentai di far capire che si stava iniziando un gioco al massacro. Una tale proliferazione era solo un dispendio di risorse che avrebbe portato tutti nella difficoltà. Mi fu risposto che era necessario dimostrare di essere in espansione per avere maggiori stanziamenti e, siccome tutti stavano facendo così, si doveva fare la stessa cosa. Diversamente gli altri avrebbero ricevuto migliori trattamenti e noi ci saremmo trovati in cattive acque. A nulla sono valsi i miei tentativi di far capire che con tale procedura ci saremmo trovati tutti a mal partito. Nello stesso periodo, più o meno, arrivarono le norme sulla certificazione della qualità. ISO 9000, poi 9001, poi 9002. A quel punto anche l'università incaricò una commissione di stabilire dei criteri per far sì che ogni ateneo potesse esibire la propria certificazione di qualità. La commissione individuò i parametri importanti al fine della determinazione di un indice che fosse rappresentativo della qualità di un ateneo. E qui si raggiunse il massimo livello autodistruttivo. Si stabilì che il più importante parametro per qualificare un ateneo fosse il rapporto fra laureati e iscritti. Vale a dire che un'università è valutata tanto migliore quanto più alto è tale rapporto. Questo è stato il benestare alle promozioni di massa. Promuovere tutti, anche se nulla hanno imparato, altrimenti scende il nostro indice di qualità. Credetemi, tutte le volte che mi trovo ad aver bisogno di un medico, lo spettro che quello che ho davanti possa essersi laureato con tali parametri è per me una presenza ingombrante. Chi stava al potere ci ha fatto credere di dover imboccare una strada per migliorare le cose e noi ci siamo caduti con entrambi i piedi. Perché è cosa nota che una popolazione meno istruita è sempre un punto a favore di chi vuol mantenere il potere. Non ha importanza il colore né la posizione occupata nell'emiciclo. Questo vale per qualsiasi tipo di struttura sociale e per chiunque voglia avere il predominio sugli altri. Dovrebbe essere nostro compito prevenire certe situazioni. Opporsi quando già si manifestano è qualcosa, ma potrebbe essere troppo tardi. Auguro a me stesso e a tutti gli italiani, oltre che al mondo intero, che non sia questo il caso. Giorgio. Continuano a dirci che nell'università italiana ci sono sprechi, spese inutili e altre cose negative. Chi ci governa non ce lo dica più, ma intervenga e risolva i problemi. Il governo ha il supporto del Parlamento per farlo. Fino ad oggi quello che è certo è che sono intervenuti nella scuola elementare tagliando i maestri. Poi, se vogliono essere molto propositivi e molto ragionevoli, si impegnino molto contro l'evasione fiscale. Se riuscissero a dimezzare l'evasione fiscale, potrebbero pagare meglio i maestri elementari, potrebbero dotare la scuola italiana di migliori attrezzature e potrebbero anche migliorare gli edifici scolastici, senza essere costretti a tagliare fondi all'università. Per un paese come l'Italia, povero di materie prime, paese solo trasformatore, è fondamentale investire in ricerca e istruzione. Fondamentale. Penso anche che contro gli sprechi e le spese inutili siano d'accordo quasi tutti gli italiani. Oggi tutti sono contro il proliferare di università in ogni dove. Però, ogni volta che viene inaugurata una nuova università, C'è sempre qualcuno che si prende il merito di quell'apertura. Magari un minimo di analisi e riflessione sarebbe oggi moralmente doverosa. Sergio. Sostenere che il maestro unico c'è sempre stato e c'è tuttora in tutta Europa è quantomeno semplicistico. Il maestro unico lo si potrebbe anche accettare, ma per classi con un numero di bambini sicuramente limitato, cioè 10 o 15. La cosa grave è che con questa riforma si alza contemporaneamente anche il numero dei bambini per classe, dagli attuali 20 di media a 27. È sotto gli occhi di tutti, poi, quanto siano cambiati i bambini delle nuove generazioni. I bambini delle precedenti generazioni erano completamente sottomessi al maestro, che poteva anche infliggere punizioni, dalle bacchettate sulle mani al castigo dietro la lavagna. Ora, se un maestro si permette di toccare un bambino, finisce subito denunciato. Oggi i bambini reagiscono in maniera strafottente alle indicazioni del maestro, mandandolo, a volte anche abbastanza esplicitamente, a quel paese. Gestire 27 bambini scatenati, con meno ore e con meno preparazione tecnica da parte del maestro unico, significherà un abbassamento enorme della qualità dell'insegnamento. Confrontarci con l'Europa significa confrontarci con l'intero sistema scolastico, che va dall'edilizia, al numero di bambini per classi, al numero di ore settimanali, alla possibilità di usufruire del tempo pieno, ai sistemi di trasporto e a tutto quanto influisce sulla didattica, sulla relazione con il bambino e anche sul sostegno ai genitori che lavorano fino a tardi. Chi ha fatto la riforma e chi la commenta in maniera positiva è sicuramente molto lontano dalle situazioni reali all'interno della scuola e dalle sue reali problematiche e necessità per migliorare e razionalizzare situazioni di inefficienza. La riforma è ben lontana da questo presupposto. Per quanto riguarda poi la scuola dell'infanzia, dalla compresenza su una classe di 15-20 bambini, fra i 3 e i 5 anni, si passerà, con la riforma, alla maestra unica su una classe di circa 20 con bambini dai 2 ai 5 anni. La riforma sopprime infatti la classe di raccordo dai 2 ai 3 anni. Non oso immaginare la povera maestra che dovrà cambiare il pannolino ai bambini di 2 e gestire nel contempo i maschi di 5 anni che lottano sul pavimento. Luca. Sono molto arrabbiato. Rispondo a quel signore che ha definito gli insegnanti nulla facenti, lavoratori per poche ore alla settimana e gaudenti fruitori di 3 mesi di ferie all'anno. Sono il marito di un insegnante di scuola media inferiore che passa le mattinate a cercare di catturare l'attenzione di giovanissimi poco o per niente motivati, viziati da famiglie che come priorità hanno la difesa ad ogni costo del figlio, contro ogni abuso da parte dei docenti, demandando però il compito educativo quasi totalmente agli stessi insegnanti e arrivando sistematicamente a contestare l'esito dell'anno scolastico con ricorsi assolutamente immotivati. Ragazzi che quando va bene usano di nascosto i telefonini con la destrezza di chi la vita ha costretto a usare il Braille. Ragazzi per i quali vengono spesi i pomeriggi nella preparazione di programmi, correzione di verifiche, aggiornamento professionale e tutto questo oltre l'orario di lavoro in aula, cioè a casa. 24 ore settimanali, magari. Vorrei ricordare a quel signore che un insegnante spesso ha alle spalle anni di studi, anni di precariato con stipendi incostanti, per pochi mesi, spesso con chilometri di spostamenti da una scuola all'altra, il cui costo vanifica il cosiddetto guadagno. Stipendi interrotti al 30 giugno e ripresi al successivo non certo incarico. Come lo definirebbe questo periodo? Ferie? Le vere ferie sono appannaggio degli insegnanti in ruolo, guadagnato spesso a 40 anni e oltre. Ammontano a 30 giorni, come per tutti gli statali, con obbligo di reperibilità per il restante periodo. Questo signore dimostra di non avere mai capito il vero lavoro dell'insegnante, di non comprendere il valore di questo lavoro, che non può essere certo pagato a ore. Dimostra che per qualcuno, nonostante l'impegno messo, è proprio tempo perso. Gualtiero. Egregio direttore, fino a un anno fa sembrava tutto tranquillo. Un lavoro fisso per me, uno per mia moglie. Niente da scialare, ma un futuro senza tante preoccupazioni per noi e il nostro unico figlio. Improvvisamente le cose sono cambiate in modo radicale. Senza più lavoro io, stipendio ridotto al 50% per mia moglie. Entrambi lavoravamo nel settore della formazione professionale a Milano, io in una scuola internazionale di restauro, circa 90 allievi. mia moglie in una cooperativa che gestisce corsi di cultura e cucina italiana. In un anno, gli allievi della mia scuola si sono ridotti a 25, perciò riduzione personale, cambio di sede, crisi totale. La cooperativa va avanti come può. Da 50 gli allievi sono diventati 20 e chi ha voluto restare dentro offre parte del suo lavoro a titolo gratuito. Perché non arrivano più studenti dall'estero? Perché le nostre ambasciate non rilasciano i visti, soprattutto a cinesi e indiani, che sono tra quelli che più potrebbero viaggiare e spendere in questo periodo. I motivi per il rifiuto dei visti? L'aspirante non conosce la nostra lingua, oppure non ha pagato per intero l'affitto per un appartamento, di cui dovrebbe firmare il contratto a distanza. Insomma, gli studenti se ne vanno da un'altra parte. Una nostra agenzia da sola ha dirottato quest'anno 18 allievi nelle scuole francesi e così abbiamo perso alcuni ottimi clienti. Grazie a questa politica sono ora disoccupato. Grazie, ministro. Vincenzo, Milano. Egregio direttore, chi le scrive vorrebbe chiedere al presidente del Consiglio, il signor Berlusconi, se si è mai posto il problema di come si faccia a vivere con 1.300 euro al mese, pagandone 600 di mutuo. Tolte le bollette, resta ben poco per mangiare. Chi le scrive fa senza dubbio un secondo e anche un terzo lavoro, anche se non nascondo che mi piacerebbe moltissimo stare a casa con mio figlio di 3 anni. Sa qual è la cosa che mio figlio mi dice quando mi vede? Dice: «Papà, lavoro». Vorrei che questi signori che ci governano si facessero un esame di coscienza, pensando soprattutto ai loro stipendi e alla faccia tosta con la quale chiedono sacrifici a noi cittadini. Distinti saluti, Francesco, da Civitavecchia. Caro Francesco, ha ragione nel chiedere un esame di coscienza alla politica e a chi ci governa. In questa fase di grave crisi economica e finanziaria dovrebbe essere indifferibile realizzare alcune misure che peraltro hanno fatto parte delle stesse promesse elettorali. È indispensabile abbassare le tasse, sia sulle persone che sulle imprese. Ci avevano promesso che non avrebbero messo le mani nelle tasche degli italiani, ma le mani c'erano già e chi ci governa ora non le ha tolte. Le aliquote sono rimaste le stesse di prima e non c'è in discussione nessuna proposta di riforma fiscale. Certo, è stata abolita l'ICI, ma intanto sono cresciute le rate sui mutui. E così, avevano promesso di reintrodurre il bonus per le pensioni, una misura che aumenterebbe il reddito di chi può ritardare di qualche mese la propria pensione e che non costerebbe un euro allo Stato. E allo stesso modo avevano promesso di tagliare le spese, di sopprimere gli enti inutili, di abolire le province, di ridurre competenze e procedure. Ma c'è un ministro per la semplificazione che si sta occupando di federalismo. No, caro Francesco, non è il caso di chiedere sacrifici ai cittadini, ma di premiare il lavoro e il merito, questo sì, e anche di premiare chi, come lei, vuole insegnare ad amare la vita a suo figlio di 3 anni. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.